Folletto 25603 e Cantina Sociale degli Uscocchi, Terre Libertà, Critical Wine presentano sabato 26 febbraio al Circolo dei Contadini, Vicolo Cortazza, Pietegrasso, la Terra Trema. Ore 17, degustazioni dalla terra, vin, pan e salam, e non solo. Ore 19, presentazione del progetto libro Terre Libertà Critical Wine. Dibattito su prezzi sorgente, autocertificazione, deco e prospettive possibili. Il vissuto e l'immaginabile nel nostro territorio e nella sua attività agricola. Partecipano Boni, Tripodi, Tibaldi, Olivero, Farina, Corti, Reverdini e fine A e più ne metta. Ore 21, cena, a cura del Circolo dei Contadini, lietamente accompagnati da fisarmonica, buzzucchi e percussioni liberi. Per informazioni e prenotazioni 328-49-55024. Micropolitiche per la resistenza, cooperazione dal basso partendo dal quotidiano. 26 febbraio, al Circolo dei Contadini, Vicolo Cortazza, Pietegrasso, Milano.